Se chiude la finestra non entra freddo, chiudi c'è freddo. Ciao Eugenio. E allora buonasera. E allora aspetta Eugenio, provando a raccordare. Tutto ok? Sì, tutto a posto. In attesa, su già nel quarto. Ho acceso, sto scendendo al porto a lavorare. Devo fare la nave veloce e poi ho finito. Infatti mi chiedevo, ma ho per lavorare oggi? Sì, ne ho già fatto due. Adesso devo fare la terza. Un'oretta e ho finito. Andare. Pensavo che eri in camper, e invece no. Ma almeno lo stai facendo uscire. Sì, a voglia. Sì. Sabato ho fatto venerdì, sabato domenica ero a Cagliari. Bella, eh? Sì, a voglia lo sto facendo uscire. E tu? Io domani, domenica, non andare a Budone, ma penso di andare il sabato, perché cambierà la partita, non so se vado, vediamo, è un punto di domanda. Dammi un controllo, Luigi, che sono aiutato, vediamo un pochino se stanno andando avanti questo. Come ne sono accorto? Sei 9:10 pieno. 9:10 pieno, alla grande. Allora, aspetta, ecco lo stacco, c'è un po' di baiane qua, Lo stacco, guarda, Eccomi qua, così sono senza niente, Aspetta, da 9:10, guardiamo 9:20, vabbè. Insomma, comunque oltre 9 di brutto. Salvato a Santiago 6:07. Ah, sì, 7 e qua è 9:10, così è. Allora, vabbè. Andare. Io devo salutare perché qua c'è gente, sono un problema familiare. E quindi devo mollare, al limite più tardi, Se ci sei, se no una notte riprendi ogni tanto, fatti sentire. Ti saluto Eugenio. Ci sentiamo. Ciao. Sì, anche io sto succedendo a lavorare. Ciao, e la notte come rientro io, voi non siete già qui, state cenando e magari siete già a letto. Ciao, ci sentiamo. Eia, va bene, ciao. sono un filo, sto facendo una cosa, ti riprendo. Ciao. Attenzione, canale 10, c'è qualcuno? Ok, già, sono qua. Facciamo qualche controllo? Aspetta un attimo che spengo la tua radio. Ciao Eugenio, ciao, ben sentito. Ciao, già, buonasera. Vabbè. A posto. Tutto a posto, se prego la gamba così sto aspettando che mi chiamino per operarmi. Sono a dolori oggi, a dolori da non poter stare. Mamma mia. Ma stai andando a pagamento o a civile? No, sto andando al policlinico. Ah, quindi quello mezzo a pagamento, mezzo no, così quello sta facendo. Via l'Italia. Via, quello di Via l'Italia, sì. Vado lì. Perché c'è un'equipe che opera, capito? Un'equipe con robot. Ah, ho capito. E niente, vabbè. Sei in attesa. Sei in attesa di chiamata, vai. Ma tu stai sollecitando, sì. Sì, sì, me l'ha detto già l'altro giorno. Fine novembre, primi di dicembre. Esatto, ma tu portavo con la gamba così. Cosa ti è successo? Sei caduto? Cosa c'è? Io non so. No, la testa del femore che si è consumata è necrosi e c'ho anche il liquido, capito? Si è consumata la testa del femore, facendo quel lavoro lì, tirando pedale, facendo. È normale che poi le articolazioni ne soffrano. Certo, certo, ho capito. Vabbè, un'operazione difficile. Non la protesi ti metto, ti taglia la loce e ti mettono la protesi. Sì, sì, lo so come funziona, lo so. Ti mettono la protesi nella testa del femore, sì, ti taglia la testa del femore e te ne metto una protesi, lo so. E vabbè, ma sono così di routine già. Allora, a me non ho fatto la stessa cosa per il piede. Io praticamente il piede non è più il mio. Ma tu cosa avevi avuto? Incidente? Un incidente è morto, si può chiamare incidente. La moto la ferma, il motore spento e la ferma. Mi è caduta sopra. Mi ci ho dato il piede appoggio e non ci ho fatto a terra, mi è caduta sopra. Mi aveva rotto quanto c'era. Tibia, pelle, malleolo sbriciolato, tallone sbriciolato. Capite? E cazzo! È proprio così, cioè, diciamo che è proprio un incidente banale, dai. Però quella moto pesa e è normale che col peso che c'ha abbia fatto danno. A me una volta mi è caduto lo scooterone sopra, stavo caricando l'anguria nella pedana, mi stava scivolando, sono andato a prendere l'anguria da fermo, cazzo, mi sono sbilanciato, me ne è caduta la moto sopra, in due non ce la facevano a sollevarla, pesava 200 kg quella moto. Alla fine poi è arrivato un terzo e l'abbiano sollevato, ma mi è andata la pedana sul piede, la pedana di taglio sopra il piede, ma un dolore, guarda. Figurati, la mia, quella là, la prima pesa 350 kg, quella che uso adesso ne pesa 450. Figurati. Bisogna stare un bel fisico, quelle volte sono pesanti, se sbagli poco a poco l'equilibratura, l'equilibrio della moto, ti ne va rinnato. Sì, sì, vabbè, hanno il baricentro basso, però comunque sì, è così. E qui ti ha fatto un bel po' di mesi di ospedale. Ho fatto tre operazioni, l'ultima sono andato a Milano. Perché qua operandomi mi avevo fatto la gamba più corta e siamo contenti. Ospedale civile? Allora, a me la prima volta, perché sono stato operato anche all'altra gamba, la prima volta che mi hanno operato me l'hanno fatta bene. Addirittura adesso mi hanno misurato, uno che ritroviamo con le gambe precise, con le gambe uguali, della stessa misura. Perché solitamente quando li operano lì, si fanno sempre un centimetro di meno, eccetera, eccetera. E non sono all'avanguardia avanguardia, certo, come quelli che vengono qua al policlinico, che vengono da fuori, e praticamente questa equipe opera in diversi policlinici, a Padova, Pavia, eccetera, eccetera, e questo è un illuminare. Se tu vai a cercarlo su internet e scrivi operazione con robot policlinico, questo è un illuminare. Sì, sì, ma conviene, guarda, andare fuori. Conviene andare fuori. Io a Milano, a Galeazzi, mi sono trovato troppo bene. Troppo bene. E sai cos'è? Che quando sei fuori, chi ci viene? Devi stare solo. Io ero con mia moglie. Mia moglie ha preso un bed and breakfast, che c'è l'ospedale, è tutto attorno al piano di bed and breakfast. Perché ci va gente da tutte le parti. A Galeazzi, io e niente, la sera veniva e poi non c'erano orari, non esistono orari di che puoi entrare e potevi uscire, passava quanto vuoi, capito? Quindi stava con me, sono stato una settimana. Per le visite dici, non ci sono orari? Lo so, però vabbè, ha fatto bene a venire lì, lì sono organizzati, qua cosa c'ha, lui, lo so, lì, lì sono tutti organizzati, sanno più o meno quello che può occorrere, attorno all'ospedale lo idealizzano e lo fanno subito. Noi qua siamo a livello terzo mondo ancora, veramente, siamo a livello terzo mondo. Io ho giurato che se mi dovessi fratturare un mignolo me ne vado a Milano a farmelo, poi di là non usano più il gesso, non si usa più ingessare le parti fratturate, e qua usano ancora il gesso. E che cosa mettono? Tuttori? Il tuttore, io ho avuto il tuttore. Però io ho avuto il ferro che mi usciva il ponticello, ho fatto la trazione, tuttore, non si usa più perché il gesso ti fa perdere la cosa, il tono muscolare, capito? Invece il tuttore no. Ho capito, io l'ho già persa da una parte, praticamente si è afflosciato il polpaccio, la gamba che mi fa male, che diciamo uso male, il polpaccio si è afflosciato e sta praticamente, si vede la pelle scendendo, capito? Lei ha perso la felicità, l'ho capito. Quando si offre un po' di palestra, fisioterapia, palestra e si recupera. E qua a Sassari sono attrezzatissimi, fai 3 giorni per l'operazione, giù al primo piano, poi dopo 3 giorni ti mandano al piano di sopra dove c'è la palestra, ti fanno di tutto e di più, fai panca, ti fanno applicazioni elettriche, ti fanno laser, ti fanno tutto quanto, quello che ci vuole, e ti mandano via a casa che tu sai già camminare tranquillamente. Perché io ho fatto già il pre-ricovero, dovevo essere operato, ma mi hanno messo con riserva, cioè se uno praticamente rifiutava oppure non poteva fare l'operazione, subentravo io. Sono stato scaroniato perché tutti l'hanno fatta, quindi io ho conosciuto questa persona e ci siamo telefonati e tutto quanto, perché abbiamo fatto amicizia, siamo andati al mare insieme, eccetera. E lui è stato più fortunato di me che l'hanno operato, e mi ha detto già, io non credo, guarda, non ci credo ancora, sto rivivendo, sono godurato a casa tranquillo, sembra che non abbia avuto mai nulla. Sì. Quando l'equipe viene da fuori, a me ad esempio mi ha operato il mitico dottor Usuili, Federico Usuili, e la sua equipe. Quando ho detto ai fisioterapisti qua, mi è scesa la bava. Infatti poi è venuto anche qua per l'ottobre da un fisioterapista, diciamo, per fare le visite. Capo, io a Portatore se l'ho fatta la fisioterapia quando ho avuto il menisco, sono stato operato al menisco. Ho fatto la fisioterapia lì a Portatore sulla satellite, perché a Sassari non c'erano posti e mi avevano mandato a Portatore. Ah sì, ho capito. Ma io la fisioterapia me la sono fatto sempre a pagamento. Sempre a pagamento, seguito dai dottori. E da dove venivano? Da Sassari? No, è uno dei Porto Torres, che è molto bravo, Alberto Mura. Sono figlio anche a Sorso. Ma quello che c'è al poliambulatorio, su? Certo che me lo ricordo, quello che fa angolo con via Piemonte, quello lì. Sì. Ho capito quale, sì, quel centro lì è. Se veniva lui a casa o andavi tu? Andavo io, lo facevo fare ogni giorno, 2 ore e mezzo, 3. Ma io ho dovuto fare un certo tipo di fisioterapia, capito? Io ho fatto la idrosolfesi, una cosa del genere, boh, che consiste in una cosa, un macchinario strano che ti prende la capita, te la piega, te la fa tutto dentro, immerso una vasca da bagno con l'acqua bollente. Ecco, capito. E adesso prendi la policlinica, c'è questo attrezzo che te lo mettono nel letto, ti fa tutto lui e ti fa piegare la gamba, i primi giorni dell'operazione te lo fanno quello lì, e dal secondo al terzo giorno poi ti portano su, capito? So già tutto, perché questo qui mi ha detto tutto come hanno fatto, dice già. Io, guarda, per me è un film quello che ho visto, è come se avessi visto un film, cioè tutto scomparso, non c'ho più dolori, cammino benissimo, mi ha rincorato quando mi ha detto così. Beh, certo, allora quando mi ero operato a Sassari io non ho mai avuto problemi alla schiena, al bacino. Ho avuto problemi alla schiena, al bacino, mi facevano sempre la schiena, il bacino, non ce la facevo più. Infatti la mia moglie, cercando su internet, ha trovato questo video, ha detto io facciamo il biglietto, partiamo a Milano, ma vai, noi siamo partiti a Milano. Mi ha fatto camminare su un tappeto in gel. Guardi Eugenio, io ho una gamba più corta dell'altra, guardi l'impronte, ma tu l'hai volo operato, ma hai detto ma va con Cisera, dopo un altro che vuole sperimentare su di me, mi hanno messo lì per attesa, dopo un mese mi hanno chiamato, sono salito e come per incanto ho spariti i dolori alla gamba, al bacino e alla schiena. Per forza, avendo una gamba più corta, ti portava avere una postura sbagliata, capito? Esattamente, io senza accorgermene tenevo il bacino storto e erano quelli dove ci dolori. Assistati a Sassari, macellai. Chi ti aveva operato a Sassari? Un dottor Porquedu, dottor Porquedu, via. Non l'ho mai sentito. C'è Ziratu all'ospedale civile che è bravo, è un chirurgo ortopedico bravo, in gamba. Zirano sì, lo conosco, Zirano era un massaggiatore di cose della Dinamo, mi faceva le infiltrazioni a me alla caviglia, perché ho provato anche le infiltrazioni ma non sono servito a niente. No, Ziranu è quello che c'è al policlinico, che opera con l'equipe. No, lui faceva le infiltrazioni Ziranu, che aveva lo studio, ora non so, al quadrato, una via al quadrato, vicino alla Dinamo. E ho capito qual è, sì, è quello lì, è quello, dovrebbe essere quello che c'è al policlinico. Perché c'è anche Ziratu è quello dell'ospedale civile. Ma io mi sembra che ha un occhio storto. No, non lo conosco io quello lì, non l'ho ancora visto, me l'hanno nominato lì al policlinico, però non l'ho mai visto. Ma quello in gamba, quello in gamba. Il danno è in gamba, faceva le infiltrazioni alla caviglia, diceva guarda che sono dolorose, però mi dava un coso in gomma per stringere i denti, da stringere i tre denti. Sei pronto? non tanto l'iniezione, ma quando entrava la medicina, che era oliosa, sono sentito entrare e spingere qua le stelle, ui. Ma il problema è che devi tenere il piede fermo. Non so perché mi virago in mezzo alla caviglia, mamma mia, non se lo ricordo. Ti toccava l'osso come ti entrava l'ago, così? No, mi infilava nello snodo della caviglia, capito? Mi infilava nello snodo della caviglia. Quindi era proprio la medicina che era dolorosa. Era proprio la medicina dolorosa, molto oliosa, con un siringone allucinante. Ogni puntura, ogni flaccone che compravo erano 48 euro. 48 euro, ne ho fatto un mese, 10 giorni, tutti i giorni. Un problema. Allora, queste che mi ha dato, che mi voleva dare la dottoressa al policlinico per passarmi il dolore e farmi asciugare diciamo il liquido, perché c'è un'infiammazione anche, chiedo che quello lì poi con l'operazione si risolve tutto, però per il momento dice se lei vuole fare queste lezioni, però le devo dire anche una cosa, costano 100 euro la fiala. Sì, costano così, sì, costano così. E io oggi sinceramente ci ho rinunciato, ne dovevo fare 15, cazzarola. Io stesso ho speso un sacco di soldi, però davanti alla salute c'è poco da risparmiare, non mi fregava niente di soldi. Però Sergi, adesso io devo fare l'operazione, metto, se lei ha pazienza, dopo che fa l'operazione si risolve tutto, se no, se non ce la fa proprio, io le ordino queste lezioni, gli faccio l'impegnativa, se avesse avuto qualche fiala io gliel'avrei data, ma non ne ho, e gli ho detto vabbè dai, e oggi gli ho speso anche per il cane quei soldi lì, perché quando gli ho fatto la cura che c'aveva questa, perdeva sangue dal pisellino, capito? Perdeva sangue a fiume. L'ho portato dal veterinario e ha dovuto fare una cura praticamente che diciamo che sessualmente per un periodo lo sterilizzava sessualmente, capito? È come se tu lo crastassi, dà la stessa cosa. Ho capito, poverino. Ma sei grande per il tuo cane, no? E 7 anni c'ha. E poi non ne ha più avuto, però. Ho pagato 120 euro la scatola, queste pastiglie che gli dovevo dare, capito? Gocce, pastiglie, questo e quell'altro. 120 euro e ne ho fatto 4 scatole. Non so, costano così. E anche io per il mio spendo parecchio, per i miei spendo parecchio, perché mi tengo conto tutti e tre. Poi va bene. Ma stasera non c'è nessuno, come mai? Ah boh, non lo so, io pensavo che oggi che era domenica, che erano tutti a casa, qualcuno ci fosse da presto, invece ho acceso, non c'era nessuno, infatti stavo ascoltando su frequenze radioamatoriali e lì c'era gente e stavo ascoltando tutta la sera lì, e poi sei entrato tu e quando ho di nuovo cercato di breccare, niente, mi sono trattenuto qua. Io sto parlando stasera alle 4, continuo, è arrivata gente a casa, lui ha dovuto chiudere, vabbè io sono andato a lavoro, devo andare a lavoro, poi come sono rientrato ho acceso. Vabbè tu non conosci Marco Domini, che ho lavori sempre. Oramai, ci ho fatto il caldo, non ho fatto niente, oramai. Sabato domenica. Ma poi avete il riposo di settimana? Sì, come è possibile. Ho capito, dai. Oh, vabbè che anche io sabato e domenica, molte domeniche me l'ho lavorate anche io. Il sabato sempre, sempre, sabato io lavoravo sino alle 9, 9 e un quarto, a volte 9 e mezza. Sai, non ho domenica a casa, si può organizzare qualcosa, non posso organizzare niente. Perché il mio lavoro funziona così, se io sono in Tirrenia, arrivo alla Tirrenia, la smarco e me ne vado a casa, cioè dipende tutto da noi il tempo che ci mettiamo. Prima finiamo e prima ce ne andiamo. Ci organizziamo abbastanza bene per andarci via prima. Però perché si può organizzare, però il problema è che quando arriva in ritardo non sai mai a che ora arriva. Il problema. Beh, quello sì, è vero. Quello non puoi saperlo. Purtroppo è così. Se no ti avresti fatto venerdì, sabato e domenica con il camper e saresti tornato la domenica sera. Ti avresti potuto fare da venerdì sera tutto il sabato e tutta la domenica. Sì, il discorso è il mio successo, ma stavo lavorando già abbastanza e dopo ragazzi non ce la faccio più, devo staccare. Ho fatto venerdì, sabato e domenica a Cagliari, me ne sono andato con il camper. Sei andato alla fiera, quella dell'Oriente? No, non sono andato alla fiera orientale, no? Era già chiusa, non aveva già finito. Non stavo lavorando sabato e domenica prima. E niente, però Cagliari è bella, una bella città, Cagliari è proprio città. Aspetta, sembra di essere in continente, a me mi dà quell'impressione lì, quando vado a Cagliari mi dà l'impressione di essere in continente. Bella città, bella città, poi sono andato al Poetto, c'era gente in acqua, insomma un sacco di cose, un sacco di gente correndo, in bicicletta, con i pattini, lo skate, di tutto, bellissimo, il Poetto è bellissimo. Lo so, diciamo che Cagliari è molto bella come città, ma c'è molta gente ignorante, perché anche su TikTok ho visto gente che parla male dei sassarisi, eccetera, eccetera. C'è ancora questa mentalità nel 2020, l'ho scritto io, nel 2020 ancora pensate a queste cose. Siamo tutti sardi e tu voi state sempre discriminando gli altri e cose. Ma è gente ignorante, infatti non sono tutti così, è perché questo qui ha detto prendete a parolaccia mia madre, fate quello che volete, ma non chiedetemi se sono di Sassari. Vabbè, anche ai candelieri i sassaresi fanno l'incoli contro i cagliaritani, cazzate, a me non mi frega niente queste cose. Io ho voglia di girare, di conoscere, di vedere, non me ne frega niente se sei bianco, giallo, rosso, verde, di Cagliari, Sassari, non me ne frega assolutamente niente. A parte che io ho molti amici di Cagliari, come si comportano veramente bene, quindi non vuoi perché, ma sono cose da, come si dice, la tifosi del calcio. Sì, è nato tutto con il calcio, perché quando venivano qua i cagliaritani li scortava la polizia sino a quando uscivano fuori Sassari, con le macchine li scortava il pullman, perché sennò li assalivano. Cioè anche qua non è che fossero basenti, ma l'ultima volta avevano fatto un casino i cagliaritani alla stazione, avevano lasciato tutto, insomma avevano fatto un casino nero. Insomma, io penso che tutto il mondo sia paese, si vive una volta solo, ci dobbiamo volere bene tutti, cosa stai a discriminare quello, a discriminare l'altro? Ma sono inefficienti, mi trovo dappertutto. Ma purtroppo è così, sì, è così. Loro non sopportano della Dinamo che c'è la Serie A eccetera eccetera, non sopportano tutte queste cose, capito? La Torres ce l'hanno con la Torres, ma anche gli Olbici la stessa cosa ce l'hanno con la Torres, Olbi e Torres non si munivi di poi a Olbi a casa non rispettano i segnali, devi stare un po' attento agli altri, passano con gli stop, passano dritti, non rispettano segnali. Io guarda, l'ho notato, sono andato diverse volte perché ci abitava prima mio cognato, adesso se l'hanno trasferito all'ospedale di Sassari, prima era l'ospedale di Olbia, l'hanno trasferito a Sassari a lavorare e quindi si è trasferito qua, ma prima abitava a Olbia, quindi ci andavo molto spesso, ma cazzo, non rispettano segnali, passano i dritti, boh. Sono fatto scemi, come città Olbia non dice proprio niente. Va bene. Aio, mi scoprendi, ci siete su 10, aio vai. Ci sono una massa di ascoltoni, di simpatici della Lecce come tirisci dell'elefante, ma non entrano. Chi è che sta uscendo con la trombetta? Chi è? Ma il segnale coso? È quello di Morris. Sono lui che arriva a Santiago Zero. Chi sta cercando di uscire non sta uscendo, sta uscendo con un innesco tipo trombetta. No, sempre così, sempre come la trombetta. E vabbè, che si vuol fa, che si vuol fa. Ma lui si può vedere già. Cosa? Da solo stai parlando. Storia. Non c'è nessuno, ciao lui. Non c'è nessuno e quindi sto parlando solo. Vai che c'è Eugenio, vai. Ciao, no, arrivo qua. E Eugenio? Ciao l'amico mio di Sassari. Ah, un po' di astrambolo. Ciao Eugenio, buonasera, dai. Mi sono appena rientrato a casa già. Ma non mi sono trovato un computer usato, bello. Ma la fare ho fatto. Anzi, due ne ho comprato. Davvero? Sì, la farò. Beh, io sono affarista. Se lo fai, lo fai da fare. Adesso me li sistemo. Uno da rimpostare, l'altro da resettare. Ma sono computer validi che ti puoi rivendere? Sono computer validi? Validi, che tu ti puoi rivendere. Ho computer così da perpetuo. No, ma non arrivano perché poi ce lo manco sempre, hai visto? No, non lo tengo... Vabbè, c'ho questo qua che ho messo a posto, che mi manca un po' di numeri. Che magari lo trovo usato, ma non mi conviene perché ha 2 giga di RAM. No, non me li tengo già. Ah, ho capito. Vabbè, ohia. E vabbè, io lo stesso mi sono recuperato di nuovo il Galaxy e vabbè, adesso sono contento che c'è tutta la stazione bella ambrosa come volevo io. Allora c'è un tipo nel gruppo, un attimo, l'ho trovato tramite Marketplace, non ti capo si chiama. Ci sta vendendo degli apparecchi CB e c'è un Galaxy, ci siamo dato un messaggio, come mi ha risposto, vorrei vedere quanto ne volevo. E quanto lo stava dando? Se non mi ha risposto ancora. Hai riportato Torres? Come si chiama? Boh, non so se dopo controllo, ma se non mi risponde, dopo controllo vedo chi è, dai, vi dico chi è. Dipende già 2 secondi che mi inciabatto, dai. Ho cose da fare anche. Devo sistemare un caricatore di un... un alimentatore di un... come si dice? Dei microfoni, quelli per cantare, di un amico. Che si è rotto, si sono staccati i fili e poi questi 2 computer da fare. E in più devo installare il bracciale che ho regalato a Marina, un bracciale d'argento con le perline, no? È la seconda volta che lo rompo. Adesso lì mi devo girare davanti alle balle, levare la perlina piano piano, che sono piccole, ce lo devo fare tutto con la lente, piano piano, e riagganciarli di nuovo il pezzo che si è rotto. Un casino, ragazzi, riprendete, dai. Ehi, fai anche l'orifice adesso. Io mi assilo a tutto già, a tutto mi assilo, a tutto. Riprendi già. Io invece avrei bisogno di andare in bagno 5 minuti, se tu ti trattieni 5 minuti vado in bagno e poi rientro. Mi se ti tiri al muro invece. Ciao Gatti. Giù scendi, non capisci, giù scendi, vai mamma. Ah, ti un muscolo. Ciao Gianni, ciao Eugenio, ciao Luca. Ciao. Insomma, po' di relax, vai adesso. Sino! Ma già finito di lavorare? Sì. Ma meglio così, hai visto? Mi hai detto che eri appena rientrato, forse io non c'ero, ve l'ho già detto, invece vedi che ti ho aspettato. Grazie, ti sei un amico. Luca! No, ci stai ciabattando, aspetta. Ci sta mettendo la ciabattina in rosa. Ma cosa non si è fragantato? Mi stai subendo il televisore, stacca. Perché? Non lo faccio andare quasi mai, almeno il fine settimana lo voglio utilizzare. Ma perché la radio è ritorta? Per niente. Va bene, ma poi chiediamo a Gianni se ha cambiato qualcosa, se la sente compresa o meno. Io qua ti sento bene, forse in lontananza ti sento meglio, magari voi lì siete più vicini e mai ti sente molto rosso. Io ti sento bene. Va bene, va bene. Beh, no, veramente lo lascio andare un pochino perché è sempre fermo. Per me sto uscendo. Sì, devo male. A parte che quel tocco lo conosco appena schiacci il dito. Fa così tanto rumore. Chi ha orecchio lo conosce. Mocini. Vabbè, poi tu stai usando il look. No, sto usando il PTT. Ah sì, ho capito, ho sentito il doppio. Il look non lo uso quasi mai. Quasi mai, solamente quando ho le mani impegnate sto facendo cosa lo uso, ma se no no. Va bene, va bene. Sì. Gianni, sei rientrato? Sì, un attimino che mi sdraio. Novità, non dici niente, boh, com'è andata? Sei in aspettativa, sei è finito, ti devono prendere, ti devono lasciare, boh. No, non ci dai nulla, notizie, zero. Io ho fatto il pre-ricovero, ho fatto il tampone tutto quanto per essere operato e mi hanno messo in riserva, capito? Se praticamente c'era già un numero prima di me, se qualcuno rifiutava oppure non potevano operarlo per qualsiasi altro motivo, mettevano a me. E invece ho perso questo turno perché tutti erano idonei e quindi adesso devo aspettare fine dicembre, fine novembre, primi di dicembre. Così. Siamo giustamente, purtroppo dico tra virgolette, siamo in mano loro, ma è così. Ti volevo chiedere già, la radio è compressa e o la stessa? No, va bene Tino, non è compressa, è di lusso. Allora va bene, lascio così che lo sto utilizzando da due settimane senza accenderlo. Kappa. E io lo sai cos'è, che aspettare tutto questo tempo, non dormire tutte le notti, stare a dolore tutto il giorno, è una cosa pesante, ma non poco. Lo so, ti capisco. Poi l'aspettativa è pesante anche perché, insomma, perlomeno, prima lo fai e meglio è. Adesso poi stiamo andando anche incontro, tra virgolette, alle feste, quindi vuoi che ci sia un po'... Non dico come frivismo, però sai, la gente quando lavora di turno nel feriale è un po' così, non è bello, capito? Quando magari le feste sono finite, sono costretti ad andare, affrontano la giornata con un senso in più. Poi vabbè, ma ci sono due equipe che operano, capito? O è una o è l'altra, a me non mi interessa, tanto sono bravi tutti e due. E quindi o una o l'altra, questa volta mi ha detto che cerca di mettermi in mezzo, cercherò di metterla in mezzo. Speriamo, te lo auguro con tutto il cuore, così prima inizi e prima finisci già. Poi quello che ha fatto il pre-ricovero con me, l'ho telefonato e mi ha detto già, io me ne sono andato dall'ospedale che se mi sembrava un film, come se non avessi avuto mai niente, perché ti tengono 3 giorni al primo piano, poi ti mandano su dove c'è la fisioterapia, ti fanno fare, dice che hanno tutti gli attrezzi possibili e immaginabili, scosse elettriche, di tutto, quando tu te leva e stai già camminando bene. Figurati, è così, ma che vuoi dica. Eugenio! Sì, dimmi! Guarda che ho tre pacchi di pesco incrociati a rotolare da fare fuori, da regalare. Non ci vuole più in zona. Siamo negativo, negativo. Vabbè, non sarei preso io uno, ma ne ho già due abbastanza carnivori. E non fa prendermi gli altri. Ma sono da che non lo accettino. Capito? Ho visto su Facebook, sono belli, ma è anche io lo stesso come te, ne ho già due. No, ma poi non lo vedo tenere un figlio, perché sennò sono ringhiosi, sono dei pitbull, quando mangiano sono dei piranha. Già i miei sono pericolosi da sé, è un casino. Così da poco si è agganciato con è entrato un mare in mano. Da me di un signore che abita vicino, è successo il finimondo. Immagino, no, io non posso riuscire a regalarli, non voglio darti un amico, un pastore, ma tra le dame già fanno guardia lì alla Porcinaia. Va bene, e per volte che li tratti bene, li devi mangiare, perché sai, darti così non va bene. Perché li devi far accoppiare con Rottweiler, no? Non fai gli incroci. Ma purtroppo è capitato che lì era in calore e lui pensava che non ce la faceva perché aveva un anno e qualche mese, e invece ce l'ha fatta e alla grande pure mi ha fatto nove. Ti sono addirittura. Ti rovina la razza. A chi? A lui no, a lì. No, a te che si ritrovi in questi cuccioli che non sono di razza, capito? Ma se fossero stati Rottweiler puri, li avessi fatti subito, anzi li avessi venduti subito. Sì, quelli non li avrei regalati di sicuro, per carità. C'è una spesa dietro, non è differente anche adesso, andate a mangiare poco. Allora, aspettiamo un po' se riusciamo a darli. Attenzione, pantofolaio, le bocce non ce te le hai, Luca. E via. No, mica se dobbiamo, c'ho due compiti da sistemare. Ah sì? Beh, avevo chiesto già una cosa a te, se non sbaglio. Forse un tablet che devo chiedere. Non vorrei sbagliare. Esatto. Li ho visti i tablet, però costano un poco di soldi. Ho l'unica è su internet, con 150 euro compri buono, per studiare per tuo figlio. No, la zia mi ha regalato uno nuovo in banca. L'ha comprato tre mesi fa, credo. Però non va in carica la batteria, adesso devo riportare l'assistente per vedere un po' cosa succede. Ed è anche bellino, con la tastiera da qua, c'è anche la possibilità di utilizzare la tastiera. Però non carica la batteria, dura pochissimo, quindi vorrà sostituire. Presa due mesi fa. Ragazzi, hanno suonato un attimino, riprendo tra un po', ciao. Va bene, lasciami un pezzo di pizza, No, non sto portando nessuno, sono qualche amico, ci sentiamo dopo, ciao. Ciao Eugenio, ciao. Ciao Eugenio, ho detto, a chi assomigliano di più, al padre o alla madre? Ma guarda, diciamo che i colori sono a lui, la forma a lei, però il muso dei maschi è più a lui. Ecco. Vabbè, tanto anche il pastore tedesco è un cane grosso, non è che sia piccolo, dai. Ma lui è più grosso ancora, quindi uscirà una taglia maxi. Sarò. E quindi te ne tieni uno di qui? No, mi terrò quando sarà, adesso non so se lo terrò pure, un figlio o una figlia di lui, però vorrei la coppia differente di sangue, quindi vediamo un po'. Ho capito, basta trovarne una, vabbè, è andata a Gucci, ti sei fuggito là? Sì, perché poi vabbè, diciamo avevo la possibilità anche di non farla accoppiare, credo, ma sono spray lì, la convinzione che lui quanto almeno mi ha cercato, per niente. E poi invece una notte devo essere che c'è riuscito, e ciccia, è andata così. Anche in canile, ma mi sembrava brutto, perché lei è sempre libera, non è mai stata in canile, quindi non è abituata. Niente, ho provato con lo spray, però adesso che lo spray a lui non deve fare niente. Cosa c'è, qualche spray repellente che non li attira? Sì, me l'ha consigliato uno che va a caccia grossa, che dice, ma io i cani miei sono in calore di porto, basta che gli metto lo spray, e i cani non lo accettano e niente, lavorano. Allora ho comprato, ho pagato 25 euro all'incirca, non bocciata da niente, non ti credere che... niente, però non l'ha accettato davanti a me, ma alle mie spalle gli ha fatto la festa. La voglia ha superato lo spray. Vabbè. Vabbè, io lo usavo anche per il gatto, però quello repellente per non graffiare i mobili eccetera eccetera, si mette, ma quello era repellente e il gatto non gli piace l'odore, si allontana, capito? Perché quando era piccolino stava cominciando a graffiare la cucina, allora gli avevo messo quello spray e non ne ha più toccato. Allora, ma adesso tu io, questi cani, queste due cavie che queste bovine sono chiuse in gabbia, ogni tanto no, prima c'era più, insomma, li coccolavo in più perché erano piccoli, tutto quanto sono belle pezze, belle grandi, e vado, li pulisci, vado a mangiare, lo tirate da una cosa all'altra, però non è che ci giochi più di tanto, anche quelle sono, tra virgolette, da dare, non so se darla a casa di mamma o me, adesso vediamo. Vabbè, qua qualcuno già te li prende, dai. Se, magari lo metti anche dove compro, vendo, scambio, questi app qua, magari riesci a vendere. Ma no, ma non c'è niente di vendere, tanto. Allora, diciamo la verità che un periodo lo vendevo, per le cavie, i figli, ma giusto per tutti gli spese, perché effettivamente tu sei benissimo, anche tu mi insegni che mangiano, bevono e il lavoro ce l'hanno da fare, quindi giusto per togliere quei due spiccioli dal mangime e ciccia. E beh, e poi quando sono piccoli sono ancora più abili, specialmente con le razze lì mangiano un bel. Sì, vogliono mantenuti, io ti capisco, perché il mio non è tanto mangione, è la verità, il mio mangia il suo pasto, fa due passi al giorno e finito lì. Si lascia le crocchette tutto il giorno, non ne tocca una, niente, se le devo mettere in mezzo alla pasta e alla carne, se no non ne mangio. Ma lo sai che questo fatto qua io ancora non l'ho riscontrato, però il cane mia sorella per dire che ha rifiutato, adesso non vuole più crocchette, questo invece io al momento le sto mettendo le mangiate finalmente, accompagnate magari con una carne cimentale, con una statuetta a base di tonno, questa roba qua, però le gradisce ancora. E poi le faccio mangiare anche la cosa che mangio io. Allora sì, io ho cominciato che praticamente quando io l'ho ritirato, che me l'ha dato chi me l'ha venduto al mio, io gli ho chiesto cosa gli dava da mangiare, mi ha detto il tipo di crocchette che si chiamavano puppi, che sono quelle della trailer, e io ho continuato a dargli quello. Poi quando praticamente si è svezzato, gli davo sempre le crocchette della trailer e mangiava quelle. Poi un bel giorno mi stava facendo la corte, gli ho dato carne, adesso questo qui, se non c'è carne non mangia nulla, carne mattina e sera, e poi la pasta, ci vuole la pasta, la carne, e poi gli metto un pugno di crocchette della trainer, e lui mangia due pasti al giorno, solo quando è in calore mangia una volta solo, no, la mattina non mangia, se lo mangia la sera, quando è proprio affamato. No, io, vabbè, questo mangia di tutto di più, quindi anche oggi per dire qualche cosa di ossicino gli abbiamo data, perché a pranzo c'era un pezzo di maialetto, una cosa e l'altra, la pasta asciutta e quello, si è recato il piatto. Stasera di nuovo un pugno di crocchette, se non si mangia quelle, non mangia altro. Cazzo. sono sciolti, i cani sono sciolti, specialmente poi quando hanno problemi, che si ammalano e cose. Io le stavo dicendo a Eugenio, il mio gli venivano delle emorragie al pisellino, gli usciva sangue a fiuti, ma non poco, no, chiazze grosse, l'ho dovuto portare al veterinario, fargli l'ecografia, hanno riscontrato che c'era praticamente una specie di ciste che si riempiva di sangue, poi questa ciste scoppiava e gli faceva avere l'emorragia, ed era dovuto al fatto delle, diciamo, quando lui aveva voglia di accoppiarsi, roba del genere, l'aveva praticamente fatto una castrazione chimica, gli aveva dato per una settimana queste pastiglie e poi gli è passato, capito? Gli è venuto per un paio di anni e poi non gli è più venuto perché si è asciugata questa roba qua. Però i primi anni mi ha fatto spendere un bel di soldi, ho fatto quattro scatole, costavano 120 euro l'una. Un bel casotto, un bel casotto, perché insomma sono cose che se non le curi, le tralasci, dopo è un casotto, va sempre a peggiorare, e lo so, si spera sempre che sia in buona salute, perché sennò agguria. E mi ha detto, se non li passa da solo vuole operato, e tolta questa, potrebbe passarli da sola facendoli la cura, se non passa così bisogna operarlo. Lascia perdere, non ci voglio neanche pensare, già, perché sono spese, poi accumulate ad altre che ce ne sono in giro, non si finisce più. Vabbè, auguriamoci sempre che siano sani. No, Taiso, grazie a Dio, già è abbastanza tranquillo. Dopo quello che ha avuto, vabbè, quello lì è stata una cosa che ha avuto da piccolo e poi gli è passato. Dice che è questione di sesso, che magari che da quando sono piccoli hanno gli entrambi i sessi, uno li rimane magari e succede questa roba qua. Ha preso una parte femminile, capito? E praticamente si è formata questa ciste, che è una ciste prostatica. Capito. No, a me l'unica cosa che non mi piace per quanto riguarda l'alimentazione che mangia le crocchette, l'unica cosa che mi piace è quello scorreggia, perché per carità. Vabbè, quello, tu immagina, tu sono fuori, i miei praticamente, io guardo il televisore, sul divano, i cuddi, i drudi allucinanti, ti crepa e ti prende alla gola. Già, lascia perdere, fuori per modo di dire, sì, fuori per modo di dire, perché effettivamente il mio rimane più con me che più fuori, e quindi sempre vicino a me. Il Rottweiler questo, e il pastore tedesco anche lui? No, quello rimane fuori. Ho capito. Agio compreso, quello lì perché te l'hai preso da piccolo, magari si è abituato a venire con te, capito? Sì, invece aspetta, se riesco a mandarti una cosa, via. E dopo la guardo perché c'è il telefono in carica, ce l'ho in cucina, dai. Sta caricando. Porca miseria, sto cercando di non prendere gli occhi perché ne ho preso troppi, però cazzo, resistere a questi dolori è una cosa allucinante. Quando te l'ho fatto poi te la guardi con calma, tu immaginati che io sono fronte al radio e lui è fuori me, giusto per farti capire come rimane, e quando vola vola, Kappa. Sì, ma ci credo, ne ho visto anche di quando te lo porti in gita, eccetera, eccetera, l'ho viste le fotografie con tuo figlio, qui va molto d'accordo, vero? Sì. Ah, io giro il campo alla Croce, vabbè, c'è la partita del grande, toccano loro la prima, perché loro fanno la preparazione prima di giocare, no? E poi dai, io vado direttamente con lui, quindi l'ho portato, sai, non voglio dare fastidio alla gente, quindi rimango anche un po' in disparte agli altri, perché lui molte volte quando c'è caldo inizia a fare lingua, quindi magari bagna la gente, quindi mi sono messo un anguino e poi mi è stata una passeggiatina e ci abbiamo dato la partita. No, ma io lo porto sempre con me, no? Da cuccio, appena l'ho avuto, è sempre stato abituato alla gente, abituato alle persone, ai bambini soprattutto. Quando degli altri cani gli do il comando, lo faccio sedere, lui si siede, si riguarda, a meno che vengano all'attacco, allora si mette in posizione più difensiva. Però quando sono piccolini invece si rimane seduto e si riguarda per dire ma cosa vende. No, il mio con i piccoli si gioca anche se sono maschi, e poi dipende dalle razze, perché con i barboncini non li morde. I barboncini, anche se sono maschi, ci gioca, perché sono cani giocherilloni, affettuosi, lui lo sa e non li tocca, ma con gli altri cani, mamma mia, non vuole visto. E dopo anche con le persone è diffidente. Infatti gli ho messo la museruola, perché a volte andavano a toccarli e li si avventava, capito? Quindi non voglio casini. Lo so. Ma vabbè, sono sempre cani. Quindi, però sai, più gente conoscono, più è meglio. Io infatti prima di... c'è chi si azzarda a carezzarlo, magari nel passare lui è tranquillo, lo accarezzi, però molta gente lo tiene, lo faccio accarezzare, gli do consenso io, lo accarezzo io, poi lo faccio accarezzare, è tranquillo. Un volta che si gira e gli ha anche la leccata. No, ma lui l'ho sempre portato, tiene in mezzo alla gente, è proprio carattere. Io l'ho sempre portato in Piazza d'Italia, lo portavo al parco dei cani dove giocavano tutti i cani, giocava con gli altri cani, eccetera. Poi si è formata una specie di greffetta, lì ciu, non mi è più piaciuto, no, non ci sono più andato. Il cane lo deve mollare dal guinzaglio, il cane deve fare così, il cane deve fare cosa. Oh, ma cosa volevi tu, cosa devi fare un cane mio? Non ho capito. E non ci sono più tornato, e me lo portavo in giro così, mi fermo con le persone che hanno il cane, parlo, loro giocano, fanno. Però vi dico sempre alle persone di non toccarlo, se non è lui che le annusa, che le scodinzola, allora se ci sono certe persone che non li fa nulla, le scodinzola, lo fa, si avvicina, le odora e poi la possono anche toccare, non li fa niente, però è un po' diffidente, capito? Magari tu lo stai accarezzando e di colpo si gira. No, così no, è un po' tra virgolette pericoloso, va, no, così no. Ma poi vabbè, ti ripeto, sono animali, possono cambiare da un giorno all'altro, infatti anche questa razza qua, ma guarda, sino a due anni e mezzo è così, dopodiché inizia a cambiare carattere, quindi bisogna stare un pochino ancora più attenti, perché se dici di fare una cosa la decide e la fai, no? Perché anche con i cani. Quindi per dire, io ce l'avevo sempre pensato, perché giustamente essendoci gente non lo lascio libero. Invece c'è un'amica che conosco che aveva questo cocchierino femmina, che diciamo che era la mascotte della squadra sua, poi si è avvicinato, e io non mi sono accorto che stavo parlando con una persona, e però sentivo la padrona, bene, abbassò lo sguardo, e lui si stava guardando, che c'era proprio sotto i piedi praticamente, ma stavano giocando, e poi però ho detto, io ce l'ho pensato, stai attento, perché non so come reagisce il cane, giustamente, quella è andata così, è femminuccia, è piccolina, è andata a curiosare, capito, ma non è che è buono, ma non gli ha fatto niente. No, le femmine solitamente non li fanno nulla, il maschio non li fa nulla. No, ma io ho risolto il problema, li metto la museruola e via, e sono tranquillo, cioè non saltate a nessuno addosso, capito? E in casa devo stare attento quando viene il bombolaio, come oggi, perché ci è mancata la bombola di domenica, come di solito, ho dovuto chiamare il bombolaio, quello del latte dolce, e farmela portare, perché c'ho due cucine io, no? Mi è finita la bombola di una cucina, stavo facendo il pollo al forno e mi è finita la bombola, allora ho trasferito la bombola di una della cucina che c'è all'interno all'esterno, è finita anche quella, sì, fine in nida. Ti è venuto Giuseppe, era al campo stamattina, Giuseppe Pala. Sì, Pala. Sì, era proprio venuto al campo, era conosco benissimo. Lì perché ha fatto un intervento, solitamente ci vediamo al campo. Vabbè, c'è questa comodità, sì. Ci avevo anche ospiti oggi, c'avevo due persone in più, quindi praticamente dovevo finire di cucinare, ma ho avuto la fortuna che prima di finire era quasi cotto, dai, come ha messo la bombola, c'è stato 5-6 minuti ed era pronto, dai. Quello lì ha avuto la fortuna. Una l'ho ordinata adesso, l'altra me la faccio portare domani, così almeno ho finisco di con tutti e due e ce ne ho tutti e due buone. Sì, è una bella comunità. Vabbè, c'è un supplemento che paghi in più perché domenica oppure te la lascia sempre il solito prezzo? No, no, lo c'è il solito prezzo. 28,50 anche di domenica. 50 centesimi non ce li avevo, gli ho detto, lui ho detto, no qua non ce li ho, la prossima volta me li dai, vabbè facciamo così. No, vabbè, è in gamba così, è non è quello problema. No, 28,50 è quella da 10 o da 15? Quella da 10? Da 10, sì. Ah, perché io prendo quella da 15, ma mi sono messo a 33, ma... Comunque tu vicino c'hai quel rifornitore, quello li vende di meno le bombole, vero? Ma guarda, non mi sto interessando io principalmente, perché ci interessa il mio padre, sì, le prendi di comunque, ma anche perché è propano, non è GPL. Ah, ho capito, è ancora meglio. Sì, a me va bene perché io ho la bombola fuori e per dirti la verità c'ho un bel pezzo di tubo per arrivare in cucina, sai che siano circa 4, 8, 12 metri dalla bombola per arrivare in cucina, quindi ci vuole un po' di pressione in più, ecco perché prendo quella propanata. Ho capito. C'è un po' di dispersione sino ad arrivare diciamo dove deve arrivare, se non spinge disperde. No, no, dai, io succede così che io prendo quella propanata perché a parte che mi svuota tutta la bombola, cioè tu quando finisci la bombola la chiudo, la smonto, apro il rubinetto e fa puff, è finita, proprio niente, non c'è niente, capito? Mentre invece nell'altra me ne avvantaggio. Ho capito, ma questa qua finisce di colpo, non ti avvisa nemmeno, la fiamma bella, tutto quanto, di colpo buh, se ne va, e ti frega per quello, perché prima io mi ricordo che quando la bomba stava per finire, se la fiamma piano piano diminuiva, allora te ne accorgevi, capito? Sì, faceva quello, ma faceva anche un'altra cosa, se l'hai notato, faceva anche un lavoro diverso, tipo una puzza un pochino sgradevole prima di finire. Sì, è vero, è vero, sì, sì, e vabbè, li mettono con l'additivo perché il gas è inodore, il gas odore non ne ha, li mettono un additivo per sentire quando ci sono le firme. Sì, ma a me, io lo sentivo quando stava per finire, dicevo, sta bussando questo qua. E comunque sì, Curughi si è aumentato, oh yeah. Lo so, ma è tutto aumentato, purtroppo è tutto aumentato. C'è una verità che è tutto aumentato, lo stipendio è rimasto sempre stabile e quindi bisogna cercare di migliorare qualche cosina, perché così, guarda, quindi ti do la verità, non è che non prendo io, sono un bello stipendio, però viene difficile arrivare alla fine mese. Sì, sì, è così. Purtroppo è così. Io sto sempre ritirando soldi dalla banca perché non bastano mai, non bastano mai. Cerchi di prendere l'essenziale, però anche prendo l'essenziale 60 euro, 70 euro di colpo, così. Ma guarda, io domenica scorsa sono andato ad Alghero, ho detto, vabbè, dai, ci prendiamo l'occorrente per fare gli affari, ci mangiamo due panini così al volo, una cosa all'altra, eravamo con la famiglia, più c'era mia cognata che tra una cosa e l'altra entro a fare la spesa, sono uscito con due buste in mano, 70 euro, neanche viste. È allucinante, ti è allucinante, non si può più comprare a nulla. E cerca di puntare una roba da terra, ma ho portato a casa che ce l'avevo, e quindi non ho comprato roba da terra, ho preso solo roba da mangiare. E vabbè, vabbè. E sì, c'è da fare un po' di conti con quando vado sulla spesa e anziché fare lo sborone diciamo prendere un po' meno, solo che io sono abituato a fare la spesa settimanale, quando vado non cazzo ogni giorno, capito? L'unico giorno libero che ho, per dire, vado, faccio la spesa settimanale, quindi devo comprare, che so, 3-4 casse di acqua, 2 casse di birra, ma dove vai? E quando vai a pagare mi c'è il troppo. E io faccio lo stesso, solo che qualche volta mi dimentico qualche cosa e devo ritornare lo stesso. E io faccio la stessa cosa, faccio. Prendo l'acqua, prendo tutto quanto, frutta, verdura, tutto quello che serve. Là. E purtroppo, anche se vai nei discounti, io vado sempre a questo discounto che c'è qua, prima andavo alla Cobe, andavo da Montinedo, andavo un po' da tutte le parti, ma non si può più entrare, non si può più entrare in questi negozi. Sì, sì, lo so, ma lì com'è? Conveniente, lì fa la spesa il padre e mia madre perché abitano lì, vicino a te, diciamo. Ma diciamo che anche qua è aumentato tutto, l'olio è arrivato a 6 euro quello da prezzo, figurati tu, 5,90 euro, cose del genere, l'olio per friggere non se ne parli, però sono sempre meno degli altri posti, prezzi, capito? Ma guarda, io ti dico la verità, vuoi che abbia preso anche cosa dici di 3 di olio d'oliva, perché l'ho terminato quello mio, ho fatto la spesa, sono sceso da braccia, dovevo strisciare la penna, 280 euro avvicinato. Eia, è così, e poi sì che ti va bene, poi c'è qualche imprevisto, sempre nel mese c'è qualche cosa da comprare, o la macchina che non ti va bene, o questo e quell'altro, ci sono imprevisti e guarda, e vai col culo a terra, mi hai detto chiaramente. Diciamo come è successo a me questo mese, che mi ha mollato il frigo, quindi ho dovuto prendere quello tipo l'americano, il frigo, con i cassetti sotto, il congelatore sotto, il frigo sotto, e anche quello. Mi ha mollato dopo 18 anni, quindi la sua strada l'ha fatta, però potevo aspettare qualche mese in più. Io mi ricordo che mamma chiamava frigorifero Rex tutta la vita, quando ero piccolo io c'era quando mi gioco con io vado, sempre quel frigorifero Rex, mai acconciato e mai nudati. Lo so, no vabbè, ma a prescindere già, adesso sappiamo benissimo le cose che stanno facendo oggi, insomma, per via del consumismo, quindi più di tanto non ti dura, se ti diamo la garanzia per 5 anni, stai pur tranquillo che dopo 5 anni ti si rompe o inizia a fare difetto, quindi non è più come una volta, tanto è vero che le cose che compravi 20 anni fa sono durate tantissimo, quelle che compri oggi oramai è fatta così la cosa, per guardarsi e ricomprarla. Io guarda, ho preso, senza andare molto lontano, mi sembra 3 anni fa, ho preso uno scaldino per il bagno, quello che è a gas al posto dello scaldabagno, per capirci, mi è durato 3 anni. Ho chiamato un tecnico per la cosa l'altra, mi ha detto guarda ti, Marco mio, e ci vuole la scheda nuova, costa 200 euro, ho detto 200 euro, ma stiamo scherzando, 200 euro, però con 250 euro ti piace lo scaldino nuovo, Io ho pagato lo scaldabagno dell'Ariston così da 80 litri sulle 300 euro, però ti tiene l'acqua calda anche 3 giorni, capito? Tu lo spegni e ti tiene l'acqua calda anche 3 giorni, ma calda bene, proprio ti puoi fare la doccia tranquillamente, è una cosa diversa, è elettronico, capito questo qua, perché io avevo messo le staffe, ho fatto mettere le staffe e c'avevo un gian caldo, più che scaldabagni dell'Ariston non posso mettere perché hanno l'attacco uguale a quelle staffe lì, e se tu metti un altro scaldabagno c'è l'attacco più giù, non lo puoi mettere perché tocca il soffitto, capito? Capito. Già, se non vuole la mattina devo mettere così a mamma che devo andare nell'altro appartamento qua a fianco, nel caso ci sentiamo dopo. Ciao, io ti saluto che sto andando a mangiare, dai, che è arrivata la mia compagna con il cane che era giù e adesso mangiamo, dai. Ci sentiamo, buona serata a tutti e anche agli ascoltori che stanno con la reciprocità. Ciao, ci sentiamo, buona serata. Andate, ciao Gianni, ciao a tutti. Ciao Tina, ciao Gianni. Ciao Luca, ciao, ci sentiamo. Ciao. Remo! Ah, tá, não.